Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantaneda in redazione, Roberto Scaltritti in regia e coach Dan Peterson in linea, tutto regolare. Ciao coach. Ciao ragazzi, amici sportivi, buongiorno a tutti. In visita pastorale almeno una volta all'anno il presidente di Biella, Marco Atripaldi. Ciao Marco. Ciao, buongiorno, buongiorno coach. Ciao Marco. Piacere di sentirti. Correggo solo, non sono presidente, lo ero, sono amministratore delegato. Hai perché giustamente Antonio Forni se no potrebbe prendersela. Fai incetta di cariche. Sì, davvero. Ho perso il conto, sei titolato tu del cavaliere. coach, io partirei dal Real Madrid, se ti va, che è un po' lontano da Biella, anche da Milano, e soprattutto che andrà a giocarsi le Final Four in casa del nemico, del Barcellona. Pensa che soddisfazione. Ma pensa l'ironia della cosa. Sì. Che Barcellona, che ha battuto Real Madrid volta dopo volta dopo volta in questi anni qui, non giocherà la finale in casa, come hai detto tu, e proprio Real Madrid si trova in casa, cioè non, indescrivibile questa ironia, certamente. Infatti loro, Barcellona ha sofferto molto questa, la prima partita dopo l'eliminazione in casa contro la squadra di bassa classifica, con Bilbao, cioè non bassa classifica, ma diciamo non uno squadrone. Hanno perso, quindi è una cosa terrificante per loro. Sì, cosa terrificante per loro, anche se resta di questo Valencia qui che Milano aveva, ricordiamo la storia con Milano di inizio stagione. Sì. Non c'era, dicevi? No, dicevo che la partita fra Valencia e Milano si giocò a Biella. A Biella, decisiva. A Biella, no, esatto. Mi va in mente questo, il coach allora fece la telecronaca. Certo. C'era ancora Piero sulla panchina di Milano. Sì, e fu una partita orrenda da parte di Milano. Vi chiedo questo, coach e Marco Atripaldi, Pesic allenatore dell'anno per il lavoro che ha fatto a Valencia, non andrà alle Final Four, è vero, però ha fatto un lavoro straordinario. Assolutamente, bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, e lui veramente merita ogni elogio, perché lui ha veramente trasformato quella squadra in tempo breve, cioè, magari ci sono motivi per questo, però bisogna veramente citare lui come allenatore con i fiocchi, veramente ha fatto una cosa proprio al di fuori di ogni aspettativa. Nessuno avrebbe pronosticato aver visto loro proprio contro Milano, proprio all'inizio della stagione, cioè proprio all'inizio della parte Eurolega, a questo punto qua, nessuno. E poi sono anche in concorrenza nel campionato spagnolo, terzo posto, quindi capolavoro, superlavoro, niente da dire. Marco? Cosa posso dire di più? Io vi dico la partita, quella a Biella, proprio accanto alla panchina di Valencia, mi fece un'impressione clamorosa per la compattezza della squadra, per come Pesic ce l'aveva in mano e per la sicurezza che loro avevano di portare a casa il risultato. Si vedeva che c'era stata una trasformazione tecnica, ma soprattutto un grande lavoro anche psicologico da parte dell'allenatore, che li gestiva alla grande. Una squadra mi aveva molto impressionato il lavoro, oltretutto sapendo da dove si partiva. In qualche modo certi giudizi severi che si diedero su Milano allora forse andrebbero rivisti alla luce di quello che poi è successo dopo, no? Sul cammino di Valencia. Sembrava una partita che dovevano vincere facile, ricordando l'andata, no? Quando aveva vinto facile a Valencia, era una squadra molto diversa. Quando Valencia era un'armata Brancaleone, per la verità. Esatto. 800-24-0024, numero verde per chiamare. Coach, veniamo invece alla tua squadra. Ad Avellino, ottimo colpo. Ottimo colpo. Molto difficile, perché bisogna sapere che nello spazio di 28 giorni precedente la partita, abbiamo fatto una partita, cioè dopo Roma abbiamo fatto 2 settimane di pausa dovuta all'All-Star Game, e poi Montegranaro qui a Milano, poi altre 2 settimane non abbiamo giocato con Siena, proprio perché loro giocavano quarti finale di Eurolega, e quindi altre 2 settimane, 28 giorni, una sola partita, quindi, e venivamo da 2 settimane senza neanche un amichevole, okay? Abbiamo anche cercato gli amichevoli, Biella non voleva giocare contro di noi, per forza non voleva giocare, vi ha mazzulati, voleva rimanere lì, esatto, voleva rimanere, è rimasto dei pochi ricordi buoni negli ultimi mesi, esatto. E quindi all'inizio abbiamo sofferto molto questo fatto, a dir poco, cioè sembrano cose, ma insomma, invece non c'è nessuna insomma, abbiamo faticato molto all'inizio della partita, poi dopo l'intervallo proprio 11-0 per cominciare da -8 a +3 in un niente, cioè proprio, e potevamo anche fare di più, abbiamo fatto in questo 11-0 pure qualche errore, quindi abbiamo cominciato a girare meglio e soprattutto non è che abbiamo vinto, cioè non eravamo sempre più 8, alla fine era più 8, ma era pari più 1, pari più 1, più 2, più 1, più 3, più 1, cioè, e poi alla fine, ultimi due minuti, ultimi minuti e mezzo più o meno, abbiamo aperto la partita a più 8, però una battaglia perché, come sa Marco, loro lottano su ogni pallone per 40 minuti, una grande squadra competitiva di grande intensità, poi Omar Thomas veramente un giocatore eccezionale. Sì, super giocatore, giocatore dell'anno. Piacerebbe. Fuori dalle nostre possibilità, veramente super, e ha ragione il coach, cioè vincere ad Avellino è una bella storia, perché loro sono veramente... hanno trovato una compattezza, bravo Frank, Vitucci, bravi tutti, i dirigenti, insomma... La squadra è tosta, non molla mai, non muore mai. Infatti la vittoria di Milano lì secondo me è importante. Sì. Coach, ma le tue rotazioni di cui si parla molto sono definitive? Le tue soluzioni sono definitive? Io sono poco per le cose definitive. Io sono uno che cerca di leggere la partita. Insomma, cioè, il conto di loro sono stati sacrificati, diciamo, Petravicius perché non era al 100%. Ok, cioè lui ha questo stiramento a lingua, infatti non, ieri amichevole abbiamo fatto con Follia a Codogno, tanto per dire, lui non ha giocato, cioè è fuori. Oggi rientra per l'allenamento, cioè quindi l'ho visto in partita e non era al 100%, l'ha messo dentro per un minuto, mi è costato, meno male l'ultimo minuto del secondo quarto, mi è bastato vedere questa così. Pechenov invece si sta lavorando bene e sta migliorando, però era una partita contro una squadra piccola, veloce, e quindi non c'era nessuno che lui potesse marcare, cioè figuriamoci Omar Thomas, tanto per citare uno, o Linton Johnson, o Shevchenko che va fuori a 8 metri, quindi la situazione della partita mi ha influenzato su questo qui. Qualche volta tu vuoi dire ok, vuoi giocare con piccoli, noi facciamo i lunghi, vediamo se voi riuscite a prendere rimbalzi, e con una squadra piccola hanno vinto loro alla grande la battaglia dei rimbalzi, e quindi avevo bisogno di gente veloce come loro. Noi abbiamo vinto la partita con le palle recuperate contro loro 24 a 13 più o meno, quindi e questa è stata la differenza, quindi scelta non del giocatore rotazione ma scelta tecnica, però è chiaro che abbiamo accorciata la rotazione, questo è sicuro. Questo è sicuro. Prima di salutarti, coach, io ti leggo delle dichiarazioni di Petrucci, presidente del CONI, di pochi minuti fa, che ha detto: una volta per tutte si facciano avanti e ci spieghino perché dicono queste cose. È troppo facile fare i fenomeni da bar dello sport sugli spalti. Presidente Petrucci, ovviamente si riferisce a quegli animali che hanno insultato Abiola Wabara l'altro giorno a Como. Il basket oggi è finito per questi motivi che sono orrendi e marginali, mi viene voglia di dire, ad esempio su una pagina intera del Corriere della Sera. Il basket non c'entra nulla con queste cose, con questi animali, non è una difesa di questo sport, è semplicemente una questione di storia anche. Guarda, è chiaro che non c'è luogo per questo nel mondo sportivo che conosciamo noi, parlo di me, parlo di Marco, di tutti quanti, cioè, io francamente queste cose qui non le ho mai sentite perché magari sto concentrando su altre cose, tanto per dire, però sono cose che ti fanno rivoltare lo stomaco, questo è poco ma sicuro, quindi spero che, e Petrucci ha pienamente ragione, non hanno luogo nel nostro mondo e non hanno luogo. Grazie coach, un abbraccio. Ciao ragazzi, Marco, ciao. Un abbraccio. Okay. Altrettanto ciao, te ciao, coach, ciao. Poi ne parliamo anche con Marco Atripaldi, l'unica cosa che avrei voluto vedere è un arbitro che mette il pallone sotto il braccio e dice adesso tutti a casa, compresi quei coglioni che fanno queste cose, perché di ciò si tratta. Ci fermiamo per il traffico, 800240024, poi torniamo con Marco Atripaldi, per il quale ho anche diversi messaggi che poi leggerò. Palla spicchi. Andiamo insieme con noi Marco Atripaldi, 800240024, numero verde, messaggi 349-238-6666, come ho promesso tra poco li girerò a Marco. Ma volevo chiudere il discorso su questa giocatrice italiana nata a Parma, che l'altro giorno si è presa questi insulti. Se c'è uno sport in cui da anni si è abituati anche nel nostro paese a un certo concetto di multirazzialità è la pallacanestro, no Marco? L'ho detto bene ieri Meneghini, presidente federale, cioè, insomma, pallacanestro in Italia è cresciuta grazie alla multirazzialità, ha avuto spettacolo. Cioè, francamente, se c'è un posto bello, non so, lo spogliatoio di una squadra, quando funziona, i problemi non sono mai legati al colore della pelle, i problemi possono essere tecnici di altro tipo, ma vedere gente che arriva dappertutto, da tutte le parti del mondo, che gioca insieme per un obiettivo comune. Gli scemi ci sono sempre. Sì. Quindi a me è capitato qualche volta di sentire, però è curioso, no, che una tifoseria possa insultare per il colore della pelle il giocatore di un'altra squadra, quando magari ha tre ragazzi di colore nella sua, no? Quindi è proprio lontano. L'episodio è veramente orrendo. Poi con una donna, non so perché, mi sembra, sì, come dire, dirlo un più di due metri dieci che schifoso, può uscire se la, sì, sì, e se li fa fuori, bravo, tutti e 15, bravo, è diverso. Una ragazza mi sembra ancora proprio più brutta come storia, proprio per ragioni, sì, come dire, fisiche, di dimensioni. Cosa devo dire? Bisognerebbe sospendere la partita. Mi pare che il presidente del GES l'avesse anche chiesto di sospenderla, forse non c'è una regola, anziché far tante chiacchiere, esatto, si stabilisca, bravo, che la partita finisce. Se c'è un arbitro con personalità, prende il pallone, lo mette sotto si il braccio, fa così, poi dice... si chiede intervento a forza pubblico, fuori, esatto, loro, fuori noi. Perfetto, fuori, e si finisce la questione in fretta. Perfettamente d'accordo all'idea di tutta questa colata di demagogia che oggi fatalmente ci dobbiamo... Ma sì, io ripeto, è sempre bello quando insultano un giocatore di basket, dire vabbè adesso aspettalo fuori, sì, perché poi, sì, come si vediamo come va a finire. Sì, sì. Mi è capitato una volta, vigevano moltissimi anni fa, di vedere dei signori tipo questi, ma, che insultavano Mike Davis, te lo ricordi? Sì, giocava a Napoli, sì, si è avvicinato al plexiglass, ha fatto il vuoto. Ma certo, ma insomma, questo è normale. Ma ogni tanto succede. Questi, gli insulti comunque poi razziali sono veramente i peggiori. Passi il campanile, sì, passi, sì, sì, le, sì, rivalità, sì, le cose per cui ci può scappare la parola, il coro, eccetera. Insomma, questa è un'altra cosa, mi sembra veramente stupida. Ogni volta che c'è Trepaldi gli mando un saluto da Treviso, dove ha lasciato un ottimo ricordo, scrive Max. Che io ringrazio perché lo fa sempre. Adesso che io abbia lasciato questo gran ricordo, ripeto ogni volta, è tutto molto relativo. Mi fa piacere averlo lasciato in lui, e devo dire mi fa piacere aver lasciato una cosa buona almeno di un anno non molto difficile, che è stato il contratto di Alessandro Gentile che io portai a Treviso, perché ahimè domenica scorsa ci ha punito in maniera molto, molto netta. È stato molto bravo, lui è veramente un talento. Poi è l'italiano probabilmente più sorprendente della stagione, ma non sorprendente ma no, per ma chi l'ha visto insomma anche qualche, sì, anno fa. Beh, però si capisce, possiamo parlare di esplosione? Sì, sì, possiamo parlare di maggiore solidità nel rendimento. Ecco, poi il ragazzo caratteriale, con insomma i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi alti e bassi, però insomma domenica oltretutto ovviamente tu non c'eri, ma io purtroppo sì, e lui ha avuto un problema con Jurak, che insomma è un giocatore tosto, sì, no? Da questo punto di vista, e quindi ha avuto anche una reazione. Da questa cosa ne è uscito con 5.000 persone che gli urlavano dietro e lo fischiavano. Repesce l'ha cambiato, l'ha rimesso, lui è rientrato con sempre quei 5.000 che gli fischiavano. A Biella poi non succede niente di più, quindi insomma erano anche, a Biella ormai sono anche lontane le persone, sì, non è che ci sia, però lui ha segnato 7 punti in fila che hanno deciso la partita, e quelle cose lì le fanno i campioni. Lo vedo molto più sicuro, veramente un grande. Se questi... dimagrisce un po', si mette un po' a posto fisicamente, lui è veramente un giocatore un po' culotto, su, ma poi la struttura fisica è quella lì, un po' ci deve mettere lui, però ragazzi parte da una base spettacolo, e poi con quel carattere lì che magari a qualcuno può anche dar fastidio, mai visto io un fenomeno che fosse anche proprio, sai, perfetto, chierichetto, difficile. È da questi particolari che si giudica un giocatore. Gran carattere, gran giocatore. Senti, Benetton invece con questa finale di Eurocup in casa, meno vedersi male, magari amarsi, chissà se la prende, poi dirsi addio con la famiglia. Ma vediamo, dai, vediamo. Adesso la finale di Eurocup in casa, esserci arrivati e giocarla, io non dico altro perché cioè, poi vedremo. Beh, pensiamo una bella cosa, no? E quindi sperare che il signor Gilberto ci ripensi. Io so che lui è un grande, avendolo conosciuto un anno, è un grande appassionato in realtà, no? Quindi sì, poi le delusioni magari o le cose che vanno meno bene possono anche portare a delle decisioni. Penso sia spazio per un ripensamento. Secondo me sì, secondo me sì. Per quello che loro hanno, quello che loro hanno fatto e fanno per lo sport, dai, uno basta che vada alla Ghirada, è un monumento allo sport. Questo è un pensiero cupo costante in questa stagione del basket, no? Perché la famiglia Benetton è la famiglia Benetton e sappiamo cosa voglia dire nella pallacanestro, quindi è un pensiero cupo costante nello sport in generale, perché loro poi quando vai lì vedi tutta una serie di cose e quindi secondo me magari dei buoni risultati, magari un ritrovare un ambiente, ritrovare una serenità e una continuità potrebbero anche fargli cambiare idea, che poi se invece arriva qualcun altro loro mi pare che abbiano garantito un sostegno già solo di struttura eccetera, che è già fondamentale per tutto quello che c'è e che hanno fatto a Treviso, poi magari invece cambiano idea, speriamo. Primo ascoltatore di oggi chiama da Torino, non mi sorprende molto. Carlo, buongiorno. Buongiorno al signor Agivaldi. Volevo chiedere al signor Agivaldi un commento su, vista anche la carenza nel ruolo anche nazionale, sul 220 Cuccarolo. Sì. Cosa ne pensa? Perché visto dal vivo mi ha impressionato la capacità, la mobilità rapportata alla stazza. Non so quali sono le lacune, quali sono le prospettive. Guardi, tanto mi fa piacere parlare di un giocatore che magari non è sempre in prima pagina come Gino. È un ragazzo, intanto 2,20 per 110 kg, cioè non ce ne sono in Italia che io sappia, ce ne sono pochi. Sicuramente è un giocatore che deve giocare anche di più di quello che sta giocando magari a Biella in questo momento, deve avere delle occasioni diverse, deve crescere. Come gli ha detto Jurak il secondo giorno che lui è arrivato, ha detto: se tu impari tre cose, giochi fino in Serie A fino a 40 anni, perché col fisico che hai, le qualità che hai, è un ragazzo che ha voglia di fare. E secondo me, come tutti i lunghi, con quella stazza fisica lì, io poi l'avevo visto a Treviso quando ero là tre anni fa, poi l'ho rivisto quest'anno, sicuramente quest'estate a Treviso hanno fatto un grande lavoro e anche nei primi mesi coach Repesce ha fatto un grande lavoro e tutto lo staff, anche fisico, perché sicuramente lui è migliorato e ha messo una stazza importante. No, anche dal punto di vista, 2,20 è un problema anche di ogni tipo. Secondo me lui ha delle prospettive, non bisogna avere, come dire, troppa fretta. 22 anni a tempo, normalmente i lunghi maturano anche dopo, quindi è un giocatore che secondo me può avere ha sicuramente dei margini di crescita e di miglioramento, deve trovare la situazione giusta, cioè, voglio dire, a me sarebbe piaciuto averlo dall'inizio dell'anno, dove tu puoi programmare un certo tipo di lavoro e quindi stabilire anche un ruolo, ritagliargli una fetta e capire quali progressi ha. Se trova il posto giusto, che può essere tornare a Treviso, stare a Biella o andare chissà dove il prossimo anno, adesso questo ovviamente è da vedere, è un giocatore che nel giro di qualche anno può diventare, può ritagliarsi un suo onesto spazio da protagonista in Serie A. Marco, non dire che non ti penso mai, quando gioca il Panathinaikos ti penso spesso, perché l'altro giorno guardando Mike Baptiste che distrugge il Barcellona, io penso, guarda, la Tripaldi è andata a prenderlo. A Charleroi? Mi pare. Lui aveva giocato due mesi a Charleroi, poi era rientrato, era a casa sua sostanzialmente, perché lui aveva avuto non un'operazione al ginocchio, quindi non era stato scelto, era un giocatore proprio cascato nel dimenticatoio, come era capitato a tanti altri. Io prima di lui Joe Blair che era stata seconda scelta, poi aveva fatto il Desert Classic, era stato bravissimo, poi si era rotto una spalla, era finito a giocare agli Harlem Globetrotters e noi lo portammo qui, poi insomma ha fatto la sua carriera. E Mike uguale, era uno che se l'ha fatto mai, si diceva mai è rotto, non è rotto, insomma lo prendemmo, facemmo un affare, poi tra l'altro un ragazzo super e ha fatto una carriera straordinaria, perché poi dopo Biella lui tornò in NBA un anno. E poi insomma un giocatore mostruoso per l'Europa, giocatore mostruoso. Poi lui sa, allora quando arrivò era un 4 che tendeva al 3, aveva delle velleità di un certo tipo quando giocava a Biella. Adesso è diventato un centro pazzesco, anche lui ha messo una bella stazza che non aveva e quel ginocchio che non doveva tenere. Io mi ricordo che qualcuno mi disse: ma tu sei matto a prendere Baptiste, ginocchio in cristallo, non regge, mi pare che insomma fagli vedere reggendo bene a distanza di qualche anno. Chiedere Barcellona, chiedere a quelli del chiedere Barcellona, chiedere a Barcellona, poveri loro, io capisco che è una delusione brutta quella lì, però Eurolega in casa da campioni d'Europa. È la vita, ragazzi, però è successo anche ad altri. Si rifaranno magari contro Mourinho, chi lo sa. Vedremo. Adesso ci fermiamo un attimo, poi torniamo a 800240024 per intervenire. Palla spicchi. Torniamo sempre con me, Marco Atripaldi. Bandiera di Biella, questo me lo consenti? Sì, Bandiera di Biella, lo aggiungo ai tuoi titoli di qui sopra. E ti giro questo messaggio di Giacomo, che il quale, da grande tifoso dei Thunder, non posso esimermi dal chiedere ad Atripaldi un pensiero aneddoto su Tabo Sefolosha passato per Biella. Se non sbaglio, non sbaglia. No, no, non sbaglio. Ne hai presi così tanti che adesso. No, no, Tabo fu una storia, però, perché lui è un giocatore. Che intanto era vincolato, era Chalon, bisognava prenderlo, è stata una trattativa veramente complicata e difficile per una piccola squadra come Biella. I soci si misero intorno a un tavolo per tirar fuori una cifra considerevole, sì, fidandosi del sottoscritto, che disse: guardate che questi soldi con un po' di interesse vi rientrano nel giro di 6 mesi, perché questo va nell'NBA sicuro. E poi è entrato nella lottery, insomma, è stato scelto al 13, quindi io neanche io pensavo francamente che lui potesse essere scelto così in alto, e quindi fu un grande atto di coraggio manageriale del sottoscritto, economico da parte dei soci nel crederci, ripagato da un giocatore che era assolutamente di un altro piede. Però questo che ti voglio dire è che poi tante volte le operazioni nascono in maniera strana. Noi conoscevamo il giocatore, avevamo visto un po' di cose, eccetera. Poi, come sempre, chiedi magari informazioni a chi ci ha già giocato contro. Lui aveva fatto la Coppa quell'anno, allora chiamai un amico in Spagna dicendo: senti, ma tu ci hai giocato contro, fammi capire che tipo è, e soprattutto, secondo te, ho fatto la domanda, dico: secondo te, posto come Biella, cioè lui gioca, può giocare? E lui mi ricorda, mi dice sempre: ehi, vamos Marco, a Biella Sefolosha è una stella, una star. E in effetti poi così è stato. Come dire, mi stai prendendo in giro. Ma in effetti sembrava sia difficile che un giocatore così, che già aveva gli occhi addosso di certo, una squadra, potesse venire poi a giocare a Biella. Se alla fine ti viene sempre il dubbio, ma sono io che sono più furbo, sì. Com'è la storia? E in realtà poi fu una scelta anche del suo agente, una scelta intelligente, perché lo portò in Italia, in un palcoscenico diverso, a giocare tanto, in un posto dove noi lo abbiamo coccolato. Le voci girano, ormai Biella da questo punto di vista è una garanzia, no? Per gli americani, per i loro agenti, e quindi vai a Biella, stai lì, e se sei giocatore vieni fuori. Questo più o meno è il concetto, infatti poi varso anche per Gerebko. La fila è lunga, prese in realtà Daniele Baiesi, e su di lui si fece lo stesso lavoro. Tabo era un giocatore anche più pronto di quello che è stato Jonas, che infatti ci ha messo 2 anni poi a fare il salto, andare di là. Tabo è un giocatore straordinario. Senti, ma Edgar Sosa in questa catena dove può collocarsi? Edgar è giovane, intanto ha 22 anni e non è europeo, è un dominicano di New York. Quindi francamente, se devo pensare, come dire, a un coacervo di razza più difficile da gestire di questo, parlando di pallacanestro, francamente è difficile. Però ha talento, è bravo, ed è bravo perché ascolta e sta un pochettino provando a cambiare quella che è la sua caratteristica, no? Lui all'inizio faceva 5-6 palle perse a partita, a metà strada fra un point scorer, playmaker, insomma. Oggi sta virando abbastanza su un gioco europeo, però non ci sta provando, c'è anche giovane, un rookie in una squadra che ha cominciato bene e poi ha difficoltà, quindi insomma non è tutto così scontato. Mi piace la sua applicazione, la sua capacità, poi ogni tanto il talento è indiscutibile. Tanto l'allenamento veramente bisognerebbe lasciare giù 50 euro di biglietti, dire vabbè. Ho visto cose che voi umani. Paio di ascoltatori, uno da Milano e l'altro dalla provincia di Ancona. Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono da Milano, però sì, non sono da Ancona. No, Ancona è Pierpaolo che arriva dopo, direi. Ah, ascolti. Sì. Sono in diretta? Sì, è in diretta. Buongiorno, intanto volevo farle i complimenti per la trasmissione. Poi volevo cogliere l'occasione per salutare la signora Tripaldi e chiedergli, dopo 10 anni Minessi è tornato a Biella. Quest'anno è stato costernato un po' dagli infortuni, è stato rivisto in panchina domenica, c'è la possibilità che rientri prima della fine della stagione, e se vede ancora un futuro a Biella per Nico Minessi. Grazie. Prego, Nico, grazie Minessi. A lei per il saluto. È stata un'operazione di cuore, no? Io spero assolutamente, Nicola lo sa, ogni volta che io arrivo all'allenamento, arrivo in palestra, lo guardo e dico: oh, come siamo, eh? Perché lui ha avuto un infortunio, insomma lui ha fatto tanti anni di carriera, quest'anno ha provato a cimentarsi con grandissimo coraggio, gettando non il cuore, tutto quanto se stesso oltre l'ostacolo. Il ginocchio, cioè lui andò via da Biella 10 anni fa perché aveva problemi al ginocchio, dopo 10 anni pensa un po' sto ginocchio com'era, no? Poi si è fatto male anche a quell'altro che era quello teoricamente sano, sì. L'abbiamo operato, abbiamo cercato di metterlo in piedi, sì, io, l'obiettivo è che lui giochi in Serie A con Biella anche almeno un minuto. E quindi lavoreremo tutti e stiamo lavorando grande. Tutti, Nicola per primo, grande. Per farlo, e poi per il futuro vedremo. Nicola fa parte della storia di Biella, lui prima gentilmente Carlo mi ha chiamato la bandiera, ma insomma, ma io me la ricordo che la Biella. Nicola è una, io me la ricordo, è una bandiera Muzio, della storia. Muzio, Minessi, lo Savio, mi ricordo, la memoria buona. Muzio, le tre erano Muzio, Minessi e Martinetti, e lo Savio era il primo prodotto della pallacanestro di Biella, perché Max Muzio e Minessi erano bresciani. Noi con i bresciani siamo, sì, stati fortunati. Poi abbiamo avuto anche Pietro Radori. Sì. A proposito, come valuti la sua stagione alla Montepaschi? Io molto positivamente, cioè secondo me sta aggiungendo forse una dimensione che gli mancava. Sicuro, beh, a Biella sai, poi lui andava tutto, non tutto bene, ma insomma chiaramente era la prima punta a un certo punto, è stato bravo. Io mi ricordo sempre, ne parlavamo prima, con la famosa partita con Ferrara dove noi abbiamo vinto, alla fine, no? La partita della salvezza di cui, sì, tu mi parlavi prima, una partita terribile. Lui fece più di 20, ma soprattutto andò a prendere la rimessa per fare i due tiri liberi della salvezza. E questo, secondo me, è stato il primo passo della sua stagione a Siena. C'è una grande assunzione di responsabilità e un grande senso di quello che lui può fare. Poi lo vedo sereno e contento, anche se magari in Eurolega, nella serie con l'Olympiacos, non è stato convocato, non ha giocato. Però il campionato lui fa il suo, io l'ho visto la partita di Biella, ha messo di nuovo i punti decisivi, è stato, è in un percorso di crescita e mi pare che l'abbia preso nel modo giusto. Sa, sono che d'accordo, lui deve avere davanti degli anni, ha degli anni davanti, perché è precoce, come dire, è diventato protagonista molto presto e sa che lui può far bene. Il carattere ce l'ha, le qualità pure, per diventare un giocatore top in Europa, come dire, io spero proprio per lui, perché, come dire, tutti i giocatori passati da Biella, no, diventano tra virgolette come figli nostri, no? Speriamo hanno, che facciano hanno questo bene. Tatuaggio speriamo nell'anima. Che facciano, ma noi speriamo che facciano bene, continuiamo a tifar per loro, tranne quando gioca confronto diretto, certo, ha messo una bomba che ha chiuso la partita contro noi, lì l'ho maledetto, però è stato un attimo. Dalla provincia di Ancona invece chiama Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno, ciao. Senti, volevo fare una domanda da Tripaldi, che penso che di basket se ne intenda molto. Io sono un giocatore di basket, sto giocando, gioco tanti anni in categorie minori, in Serie B. Sì. Seguivo Maggiotto, che era con me, lui è stato anche a Biella, l'ho seguito un anno, poi non ha trovato spazio, è andato via. Secondo me ha delle qualità tecniche, lui sta con me in B2 a Senigallia. Volevo chiedere, a parte lui adesso perché l'ho conosciuto, perché stava con me, come mai non riusciamo anche in squadre magari minori, diciamo come Biella, ad altre realtà, non riusciamo a trovare spazio, questi giovani non riescono ad inserirsi in squadre in categorie, non dico giocare in quintetto, però magari ho visto che quel tempo c'era Becchi che è riuscito alcune volte ad inserirlo, poi però non è stata più data fiducia a lui, o non so se ci sono stati altri motivi, adesso volevo chiedere questo, ecco, in generale, certo, oltre riferendomi a lui perché l'ho conosciuto, insomma. Sì, sì, sì, ovvio. Bene, intanto ti ringrazio per dire capisco di basket, insomma, parole grosse. Facciamo come possiamo. No, ma Giotto l'anno scorso è arrivato perché noi avevamo problemi di infortuni, il ragazzo che arrivava dall'allora B1, diciamo, ragazzo super, devo dire, sia come carattere che come qualità fisiche e anche tecniche. Evidentemente la Serie A, oltretutto per una squadra come la nostra, che poi si trovò in grandissima difficoltà, dove si è salvata, come ricordavamo adesso, l'ultima giornata, evidentemente che dare spazio e responsabilità a un ragazzo che non aveva mai giocato questo campionato diventa difficile. Quindi questo è uno dei ragionamenti. Però la salvezza dell'anno scorso fu anche molto merito suo, perché l'apporto che lui ha dato in allenamento, il tenere alto il ritmo, la fisicità dell'allenamento e quindi consentire agli altri di allenarsi al meglio è stato fondamentale. È un giocatore che secondo me, come tanti nel cosiddetto sommerso della serie minori, può avere un futuro e può pensare di tornare, di giocare a un grande livello. Tante volte L'errore che fanno i giocatori che giocano sotto è di pensare di più o magari ai soldi, sì, o certo, magari a non aver voglia di mettersi in gioco. Vieni in Serie A e magari per un anno non vedi il campo, però hai la possibilità, hai l'occasione. Se c'è una società che ne ha presi tanti da sotto e li ha fatti giocare, siamo proprio noi da questo punto di vista, ma mica solo per virtù, anche per necessità, ecco, no, per cui... D'altra parte basta leggere roster, storia, nomi, numeri, esatto, eccetera, eccetera. Quindi sì, credo sì, che sì, noi... No, ma tu hai ragione, manca... In parte lo fai, poi devi essere anche competitivo. Bravo. Alla fine la gente ti chiede anche di vincere le partite. Stiamo parlando di sport professionistico. Sai, quindi... si tratterebbe di fare delle regole un po' diverse, no? Un ragionamento, adesso non voglio introdurre una cosa che è clamorosa, ma cioè che è troppo grossa, sì, forse per il tempo e il momento, ma se tu in Serie A blocchi le retrocessioni per 2 o 3 anni, vedi che almeno nelle squadre come Biella di ragazzi giovani italiani giocherebbero molti, sì, di più. Io su questo discorso non sono d'accordissimo, tu lo sai, perché il senso dello sport italiano sta anche nell'ansia del risultato, più che altro bisognerebbe capire. È vero, infatti io non parlavo per sempre, io mi riferisco a un periodo molto ristretto e che è legato anche a una situazione economica contingente molto difficile. Io faccio un discorso molto ampio, ma ho detto non è il momento e non è questa la sede, ma una delle strade sicuramente per far giocare di più ragazzi che magari hanno tempo e bisogno di crescere e che tu li butti dentro e poi perdi 1, 2, 3, 4, 5 e alla fine, come dire, e su questo devi cambiare anche il discorso... devi consentire di poter programmare le società, alcune società, non tutte, certo, perché certo, chi è società di vertice non faranno mai quel tipo di scelta lì, certo, certo, ma le società medio-piccole sicuramente la possono fare, ma la devono fare tenendo presente poi che non puoi, come dire, pregiudicare una stagione mettendo magari dietro 3 ragazzi giovani di belle speranze ma che poi non danno rendimento. Questo sarebbe un ragionamento da fare. Serve che torni un'altra volta, mio caro. ci fermiamo un attimo per il traffico e poi già te lo dico, magari l'anno prossimo, adesso chi è di Casale Monferrato si farà gli scongiuri, però potrebbe esserci un derby piemontese. Io, a me piacerebbe vedere questo derby a Torino. Ci fosse questo derby, mi piacerebbe vederlo a Torino. A meno che non ci vada Sabatini con Ferrara. Notizie di oggi, intervista sulla Gazzetta. Leggo. Bene, parliamo dopo il traffico. Bello, facciamo così. Bel discorso. Palla spicchi. Allora, adesso volevo parlare di questa storia qui, derby piemontese, Torino, Sabatini. Però prima ti giro un messaggio, sennò poi mi scordo, me l'ho appuntato. C'è un semplice appassionato, si firma così, che voleva chiederti un tuo commento sulla famiglia Angelico, quanto sono importanti per la pallacanestro Biella sia come sponsor che come soci. Eh beh, cosa, hai già detto tutto nella domanda. Il semplice appassionato. Come dire, meno male che ci sono, no? Perché comunque... i due fratelli Angeli, cos'è? Sono soci da oltre 10 anni, sponsor da 6, presenti su tutte le iniziative, presenti nella pallacanestro al di là di Biella, perché so che hanno rapporti di collaborazione, di pubblicitari, di fornitura con diverse squadre. Quindi gente che lo fa prima di tutto per passione, che poi ha fatto anche un'operazione importante, perché ha legato il proprio sviluppo, no, dei loro negozi, delle loro attività al marchio della pallacanestro, utilizzando la pallacanestro come veicolo. Direi che insomma sono fondamentali in questo momento e questo gli è riconosciuto da tutti noi. Mi fa piacere poterlo fare, anche a me non è piaggeria nei confronti di Alberto Massimo Angelico, che sono degli amici al di là di tutto, ma sono veramente delle persone e un'azienda da imitare. Secondo me ce ne fossero tanti, così staremmo tutti meglio. E così anche il semplice appassionato è accontentato. Certo. Flavio Tranquillo, buongiorno. Ciao Flavio. Buongiorno. Sai, con Marco Atripaldi abbiamo aperto il libro dei vari americani che sono passati per Biella, passando da americani o comunque straniero, comunque super giocatori, da Seforogia a Gerebko a Battiste. Te ne viene in mente qualcun altro? Oh beh, ce ne sono stati di interessantissimi. Granger, che prima di passare per Biella non era esattamente dominatore, esatto, di un campionato, e poi ha quasi vinto, anche se poi l'ha persa, una finale di Eurolega da solo. Sì, me la ricordo. No, ci stavamo domandando insieme Edgar Sosa in questa collana dove potrebbe, sono discorsi ancora teorici vista l'età, visto il fatto che è rookie primo anno, però quel talento indiscutibile, ci stiamo domandando dove si può collocare potenzialmente. Beh, sicuramente sicuramente il materiale è buono, poi credo che a questo punto, purtroppo per Biella, come dimostra la storia, diventi importante dove fai il secondo passo. Io sono un teorico quasi sempre, sicuramente nel caso di Sosa, poi mi sbaglierò, della necessità di non fare Biella-Atene direttamente, perché quello è un salto difficile. Ma se fai un salto Biella, posizione intermedia, magari ancora posizione intermedia e poi Atene, è un'altra cosa. Lo dico pensando al Panathinaikos di Battista, dove gioca Nicolas. Nicolas è in Lega 2 a Fabriano e tutti dicevano: non può mica giocare in Lega 2. Poi è andato a Livorno, in Serie A, figurati se può giocare a Livorno. Se avesse fatto Fabriano-Atene, sarebbe durato 3 partite. Facendo Fabriano-Livorno, Atene un po', poi Atene di più e poi Atene da titolare, è tutta un'altra cosa. Sì, anche Treviso in mezzo. No, esatto. Per cui, sì, infatti, mentre pensavo ero sicuro ci fosse un altro No, no, c'era Treviso, c'era Treviso. Ma quindi Aradori ha fatto il percorso corretto? Flavio? Beh, Aradori è un caso diverso. Io quando penso agli americani penso alla necessità di capire per osmosi, perché non credo che ci sia un'altra maniera, tutte quelle cose che sono così importanti per giocare ad alto livello in Europa e che sono così tanto lontane dalla loro mentalità. Il discorso degli italiani è ovviamente completamente diverso, è un discorso tecnico ed è per certi versi un discorso speculare, nel senso che non hanno il problema di capire a che ora chiudono i negozi, che cosa si mangia, che certi arbitri li devi lasciare stare e certi altri puoi parlarci. Hanno invece il problema di conquistare minuti, spazi, certo, credibilità, cosa che invece normalmente lo straniero non ha. Breaking news. La vicenda Generali e il dopo Geronzi. È stato raggiunto poco fa il consenso per arrivare nel consiglio di amministrazione di questa sera delle Generali alla nomina di Gabriele Galateri alla presidenza del Leone. E noi torniamo dopo questa breaking news, che verrà ovviamente approfondita in notiziari e programmi economici della giornata, alle cose del basket. Flavio, sensazioni che ti ha lasciato UConn, campione NCAA? Quando un programma, lì si chiamano programmi e sono programmi per davvero in tutti i sensi, proprio come i progetti delle aziende, quando un programma raggiunge un certo livello di credibilità, poi ci può essere l'anno in cui vai un po' più giù, l'anno in cui vai un po' più su, però rimani a un certo livello. Vale per UConn e vale per Butler per certi versi. Mi spiace molto che Butler abbia giocato una finale così onestamente davvero inguardabile, tra l'altro anche inguardabile come livello di spettacolarità del gioco, con tutta la cerebralità del basket, ma non si poteva guardare. UConn aveva comunque un giocatore che si staccava dagli altri in Kemba Walker. Mi sembra una definitiva entrata in un determinato Olimpo. Marco, quanto valuti, quanto pesa il passato, il trascorso di un giocatore universitario, naturalmente, il suo curriculum universitario quando devi sceglierlo? Beh, abbastanza. Abbastanza. Cioè, guardi l'università in cui ha giocato, guardi il livello delle partite in cui ha giocato. Quello sì, poi come sempre dipende da che cosa uno poi può fare ragionevolmente sul mercato. Ovvio che arrivare da un programma, come giustamente dice quello che chiama Flavio, come si chiamano il program, no? Da arrivare da un programma serio ti dà un certo tipo di garanzia sul fatto che il giocatore sia in grado poi di capire un sistema, perché arrivano comunque in un mondo nuovo, in un sistema nuovo. Ma se già sei un giocatore abituato a giocare in un certo modo, in un certo sistema, con certe regole, certe cose, è più facile inserirlo. Se tu arrivi da un posto dove le regole non ci sono, né cestistiche né extracestistiche, che sono, giustamente il discorso che faceva Flavio prima, non fa una grezza, valgono 50 e 50 quando arrivano qua, perché il problema è il mangiare, il problema è qualunque cosa. Poi arriva anche, anzi, forse la palestra è l'ultimo dei problemi, soprattutto per i ragazzi giovani, è chiaro che conta. Poi non sempre ovviamente riesce a prendere i giocatori dai programmi migliori, questo è normale. Questo è normale. Flavio, per chiudere invece, i Chicago Bulls che battono i Celtics sono la prima qualificata a Est. Ci siamo, giovedì ci siamo, abbiamo in mano tutto. Abbiamo in mano tutto, è ancora un po' di di nodi da sciogliere, però io non sono un grande credente che arrivare 3, 4 o 5 faccia tutta questa differenza. È ovvio che il coach della Palisse sa bene che arrivare terzo è meglio che quinto, ma alla fine c'è una tale parità in questo momento storico per motivi proprio strutturali nell'NBA che in qualsiasi serie, secondo me compreso 8-1, se tu sei più forte puoi benissimo vincere, non ci sono delle differenze come una volta in cui eri Boston piuttosto che Lakers della situazione avrebbero potuto fare la prima serie che serve, non è assolutamente così, e questo penso che sarà il bello, anzi lo straordinario dei playoff NBA. Grazie Flavio, sentiamo domenica. Saluti a voi. Un abbraccio, ciao. Grazie Flavio Tranquillo. Marco Trepaldi, invece siamo in chiusura. Mettiamo che Casale venga promosso, Casale Monferrato, e Biella si salvi come dovrebbe. Dove lo giochiamo sto derby? Ma noi abbiamo un palazzo dello sport splendido, ragazzi. Questo lo so. Il più moderno d'Italia. Però questo derby piemontese si potrebbe giocare a Torino. Secondo me, se diamo l'organizzazione a Sabatini, diventiamo anche tutti più ricchi. Quindi, guarda, io, ma lo dico seriamente, perché se c'è uno bravo a far diventare anche Biella Casale un evento, è lui. Su questo non c'è dubbio, ha delle qualità superiori. Per cui, poi per prende carità, Ferrara, viene a Torino. Quello è un altro discorso. Viene in Piemonte, sarà il benvenuto. Guarda, io, contrariamente magari a quello che altri possono pensare, credo che la concorrenza e la, come dire, stimolo, la ricchezza sia uno stimolo, no? Più squadre ci sono, ci fossero tre squadre piemontesi di Serie A, magari anche Biella e il Piemonte del basket conterebbe un po' di più del poco che conta adesso. Senti, torna a trovarci naturalmente quando volete, è un vero piacere venire qui, e poi questa è una delle poche trasmissioni dedicate al basket fuori dai canali tradizionali del basket, quindi questo è un piacere. E noi continuiamo, grazie a Marco Trepaldi, grazie a Franco Piantaneda in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Domani ci vediamo a Vinitaly, saremo lì a fare A Tempo di Sport dalle 5 alle 6, vi aspetto magari anche fisicamente se volete venire a fare una bevuta, siete di zona. A domani.